9 in punto, la versione di Oscar. Buon giovedì 6 agosto da Oscar Giannino, cari ascoltatori di Radio 24. Immediatamente il tema sul quale vi chiedo di intervenire all'800240024 o con le vostre sms al 349-238-6666 oppure a 9 in punto @radio24.it. Le gabbie salariali, se ne parla da 2-3 giorni per l'ennesima uscita della Lega. Io vi chiedo però di non concentrarci più, non voglio polemiche come già ne sono venute ieri sulla questione politica, chi propone cosa. Badiamo al merito. La questione è: la Banca d'Italia, un report della Banca d'Italia, uno studio, un occasional paper della Banca d'Italia ci dice che nel sud il costo medio della vita è significativamente più basso che al nord, lo sappiamo, ma ci dà anche una cifra, il 16,5%, qui i salari commisurati a questo costo della vita diverso. C'è chi ha detto gabbie salariali, è un'idea opportuna. Oggi per esempio Alberto Alesina, economista dall'America che scrive su Sole 24 Ore, dice sì, è un'ottima idea. Io ho un'altra idea in proposito, lo vedremo con i nostri ospiti, vedremo come la penserete voi. Ieri ci siamo occupati dell'identità nazionale un po' attenuata e come giorni prima della cassa del mezzogiorno. Oggi un altro aspetto di una questione che però è più o meno la stessa, quella di nord, sud, confronti comparati, numeri alla mano, per formarci delle opinioni intorno a come risolvere i problemi della diversità, della persistente anomala divergenza che c'è tra nord e sud. E oggi ci occupiamo dei salari, perché una ricerca che non impegna la Banca d'Italia, perché pubblicata in questa collana, gli Occasional Papers, che rispecchiano l'opinione degli autori, degli economisti che le elaborano, ma una ricerca appunto apparsa 2 giorni fa della Banca d'Italia ha stimato una media della differenza dei diversi comparti dei prezzi al consumo che incidono insomma sul costo della vita tra nord e sud, tra alimentari, i beni lavorati, i semilavorati, le spese per le utenze, gli affitti e così via, e la media calcolata dagli economisti della Banca d'Italia è che vi sia una divergenza del 16,5 di prezzi medi, costo vita medio più basso al sud che al nord. E la domanda quindi diventa: come parametrare per i salari, per il reddito del lavoro dipendente, salari che tengano conto delle diverse curve di costo e quindi anche del fatto che non è molto giusto avere una retribuzione uguale nazionale per tutti quando i diversi costi della vita sono così differenti. Ancora oggi trovate su quotidiani paginate intere che approfondiscono questo 16,5% medio, perché in molti segmenti dei consumi la forbice del costo della vita più basso e ancora più a vantaggio nel sud. Vasto dibattito, perché la Lega interviene e dice a quel punto: ripristiniamo le gabbie salariali. Cosa sono le gabbie salariali? Erano un parametro di differenziazione territoriale per la costruzione del salario contrattuale, che dal 1946 fino al 1969 è rimasto vigente nel nostro ordinamento. Suddividevano l'Italia in 14 aree diverse, poi si ridussero a 7, arrivarono a una forbice che era fino al 17-18% di differenza, quasi il 20% tra l'area in cui il parametro retributivo sul costo della vita era più basso e quello più alto. Vennero poi aboliti in nome della conquista del fatto che la retribuzione uguale per tutti nazionale era un grande obiettivo sindacale. Da tempo, di volta in volta, si riparla della reintroduzione delle gabbie salariali. La mia opinione, e finisco questa introduzione per poi passare la parola ai nostri esperti e a voi per le domande fatte a loro, è che non si tratti di introdurre meccanismi come le gabbie salariali. Non la penso insomma come Alberto Alesina, che trovate oggi uno dei pochi editorialisti che in questi giorni ha sposato invece la posizione della Lega, che ieri stesso invece ha fatto marcia indietro per bocca di Calderoli. Alberto Alesina sostiene c'è una differenza ancora maggiore di quel 16,5%, soprattutto se poniamo mente ai dipendenti pubblici, che sono molto più numerosi nel sud che al nord. La forbice in quel segmento ci dice che c'è addirittura tra il 30-50% di più spesa pubblica e meglio di retribuzioni di più ricco potere d'acquisto, in eccesso rispetto a quello che sarebbe se i dipendenti pubblici del sud fossero in percentuale come al nord e fossero pagati in maniera proporzionata al costo della vita diverso. La mia opinione, qui concludo, è che invece di parametri diversificati territorialmente, noi dobbiamo pensare a una struttura della retribuzione generalmente commisurata in maniera crescente ai diversi costi, di cui il costo della vita per il dipendente è uno dei costi fondamentali, ma è solo uno dei diversi costi. costi rispetto al totale di tutti gli input che concorrono alla produzione, che hanno costi diversi localmente. Allora abbiamo provato a gennaio scorso, dopo tanti anni di confronto, un modello contrattuale nuovo rispetto alle intese del 93. Questo modello contrattuale prevede finalmente un doppio livello, un secondo livello di contrattazione. In questo secondo livello di contrattazione si tratta di confrontarsi sul reddito e sul salario di produttività, quello commisurato cioè al migliore impiego dei fattori della produzione e che premia in maniera individuale, azienda per azienda, la diversa disponibilità dei lavoratori al miglior utilizzo degli input nell'azienda. La mia opinione è che questo secondo parte del salario, il salario di produttività, dovrebbe essere commisurato a tutte le diverse curve di costo locali, perché per l'azienda cambia il costo dell'energia localmente, il costo delle infrastrutture, e sono i gap di produttività del sud, visto che di questo stiamo parlando, stanno tutti espressi dalle diverse curve di costo degli input dell'impresa. La mia opinione, qui concludo, è che invece di pensare alle gabbie territoriali a macro area, bisognerebbe dare molto più spazio a questo salario di produttività. E concludo dicendo che per fare questo, visto che noi stiamo sperimentando le prime piattaforme che sono in arrivo, penso agli elettrici, ai meccanici, col fortissimo rischio che i timori del sindacato e i timori dell'impresa, che sono le prese con grave crisi in questi mesi, non mettano al centro questo secondo salario di produttività, la mia opinione è che a questo punto il governo dovrebbe procedere a una detassazione molto più forte di quanto fatta per incoraggiare le parti sociali l'anno scorso. Ricordo a tutti che la parte detassata e decontribuita è in un limite tra il 3 e il 5% della retribuzione lorda annua, e la mia opinione è che per incoraggiare in questa prima sperimentazione della contrattazione decentrata le parti sociali, cioè imprese e sindacati, a prenderla sul serio e a fare modellare a far decollare questo nuovo modello di relazioni sindacali in cui in azienda per azienda il sindacato pianti una bandiera che oggi non ha, soprattutto nelle piccole imprese, con la capacità di confrontarsi sulle curve di costo locali, per fare questo secondo me c'è bisogno di una incentivazione fiscale molto più forte, perché altrimenti, ripeto, il rischio è che le imprese oggi sentano di dire ai sindacati: guardate, non ce n'è, al massimo facciamo un nuovo contratto ma in deroga rispetto ai minimi del contratto nazionale, perché anche questo è possibile con la nuova intesa di gennaio scorso, e i sindacati, io penso che altrimenti il rischio che le ubie della CGIL, che dice no a questa riforma del modello contrattuale, siano molto più forti. Fine di tutti i miei interventi, ora passo immediatamente a presentarvi i nostri esperti, ma siccome è questione delicata, un po' tecnica, un po' concreta, a me piace essere un pochino più concreto che limitarci a litigare su gabbie salariali sì, gabbie salariali no, Lega, magari senza ricordare bene di che cosa in concreto stiamo parlando. Allora, abbiamo con noi ringrazio Giuliano Cazzola, che è vicepresidente della Commissione Lavoro della Camera. Buongiorno Cazzola. Buongiorno a lei, Giannino, ai suoi ospiti e agli ascoltatori. E abbiamo poi Pietro Ichino, senatore del PD, notissimo giuslavorista, che da anni su testate nazionali, il Corriere della Sera, penso ci ha aiutato meglio tutti a capire e a indirizzare dibattiti su questi temi. Buongiorno Ichino. Buongiorno. Ecco, io chiedo a entrambi voi, che siete molto più versati di me, di fare strame di tutte le stupidaggini che possa aver detto, però intanto a voi devo chiedere che impressione avete di questo rilancio del dibattito sulle gabbie salariali e, quale delle diverse possibilità vi sembra che invece raccolga questo sentimento, che però popolarmente è molto diffuso. La Lega ha cavalcato un tema che poi si vede dalle telefonate, lo si vede dagli sms, la gente sente molto della iniquità dell'uguale retribuzione nazionale di fronte a curve di costo così diverso. Ichino, che ci dice? Diciamo subito che è un dibattito questo che non riguarda il legislatore. La retribuzione in Italia è determinata attraverso la negoziazione collettiva e ci sarebbero addirittura dei sospetti di incostituzionalità di una legge che imponesse un intervento autoritativo comunque dello Stato, che imponesse una differenza. Detto questo, detto quindi che il problema riguarda le scelte che imprenditori e sindacati fanno in sede di negoziazione collettiva, io dico che il problema esiste. Io credo che effettivamente la retribuzione non può essere negoziata non tenendo conto della differenza del potere di acquisto reale della moneta. E quindi credo che questo, per esempio, per la determinazione di un salario minimo nazionale dovrebbe essere preso in considerazione, un tema, è un elemento, un fattore che dovrebbe essere preso in considerazione. Ricordo per esempio l'esperienza della Germania, che dopo aver, subito dopo la grande unificazione nei primi anni 90, applicò il principio dello standard unico nazionale, e poi però subito dopo si accorse che questo generava disoccupazione e lavoro nero nella zona meno sviluppata, che era la Germania dell'Est, che veniva dall'esperienza comunista e che era in condizioni molto di grande debolezza. E allora in Germania si passò alla determinazione di standard regionali o macro regionali, che sono quelli che in Germania si applicano oggi. Anche in Svezia, che pure è la patria dell'idea dello standard nazionale applicato uniformemente, questa fu la scelta caratteristica del sistema svedese negli anni 50 e 60, oggi si sta orientando verso delle differenziazioni regionali nel salario minimo. Questo per quel che riguarda il minimo. Per quel che riguarda poi la retribuzione effettiva, questa deve essere determinata essenzialmente in funzione della produttività del lavoro, e quindi lì deve esserci un largo spazio alla contrattazione aziendale, che può anche portare a salari alti nel mezzogiorno, dove la produttività aziendale della singola azienda nel mezzogiorno sia particolarmente elevata. Comunque, ribadisco, è un problema che devono affrontare le parti sociali, i negoziatori della contrattazione collettiva, non deve essere affrontata in sede legislativa. Io ricordo a chi in ascolto che nell'intesa firmata a gennaio del nuovo modello contrattuale anche la portata categoria per categoria, quindi tipo di contratto per tipo di contratto dei vecchi contratti collettivi nazionali di lavoro, la vastità dell'ambito da lasciare a questo secondo livello di contrattazione deriverà anche in questo caso da accordi interconfederali, cioè tra le parti naturalmente, e questa fase sperimentale, che si è detto durerà 4 anni, consentirà di apprezzare quanta davvero attenzione, quanto spazio, quanto ci scommetteranno su questo secondo livello. Personalmente, rispetto a quello che dice Ichino, cioè vediamo di differenziare in relazione al potere d'acquisto anche la parte di salario standard, anche se noi non abbiamo un salario minimo nazionale di riferimento nel nostro modello contrattuale, non so allo stato attuale dell'applicazione di questo nuovo modello quanto ci convenga, lo dico nel lanciare la palla a Cazzola, rispetto invece alla, visto che dobbiamo scommettere molto su questo nuovo modello contrattuale, se non portare la componente di costo territoriale direttamente già per fare decollare nella seconda parte del salario quella che deve essere contrattata decentralmente. Oltretutto, allo stato attuale, per essere sinceri con chi ci ascolta, Confindustria tende a dire la contrattazione decentrata e soprattutto nelle aziende. Il sindacato dice sì, però ci vuole la cosa del territorio. Forse parlare del costo della vita differenziato per macroambiti territoriali e poi fare la contrattazione anche nelle aziende servirebbe a far decollare ancora meglio questo secondo livello di salario di produttività. Lei che dice, Cazzola? Senta, guardi, innanzitutto le devo dire che purtroppo la devo lasciare alle 9.45. Io credo che quando si parla della realtà del Sud bisogna anche tener conto che diciamo un lavoratore al Sud ha una struttura di servizi pubblici che, anche quando c'è, è molto peggiore di quella che ha un lavoratore al Nord. Perché in realtà ci può essere anche una tariffa, diciamo, degli autobus inferiore, poi magari il servizio degli autobus è un servizio scadente, e lo stesso si può dire per cose essenziali come la sanità e via di questo passo. Tuttavia, se io fossi un sindacalista meridionale, io una differenziazione dei salari la chiederei, non me la farei imporre, la chiederei, perché io credo che una delle ragioni per cui nel sud c'è tanto lavoro sommerso è proprio perché l'economia meridionale in larghissima misura non è in grado di stare a regole uniformi stabilite forzatamente in tutto il territorio nazionale. Quindi la sua proposta è indubbiamente una proposta percorribile, una proposta da valutare attentamente, però nell'accordo del 22 di gennaio c'è anche una soluzione che tra l'altro ripercorre esperienze individuate in Germania, individuate in Francia, in Spagna, che sono le clausole d'uscita sostanzialmente, le clausole di deroga. Il punto 16 dell'accordo quadro prevede che per determinate aree, onde favorire lo sviluppo, onde incrementare l'occupazione, si può derogare dai minimi stabiliti nei contratti nazionali. E credo che questa strada andrebbe percorsa nel sud, lo si può fare in via sperimentale, lo si può fare per un periodo limitato, ma andrebbe percorsa nel sud d'intesa tra le parti sociali in larga misura. Tra l'altro la settimana scorsa la UIL ha fatto una proposta in questo senso, scambiare clausole derogatorie per alcune regioni meridionali in cambio di maggiore occupazione. Quindi secondo me è questo lo strumento da usare ed è uno strumento che peraltro esiste da anni, da almeno due contratti nella contrattazione dei chimici. Sì, infatti, solo nei chimici però appunto. Sì, però adesso è scritta nell'accordo quadro del 22 di gennaio ed è stato anche recepito dall'accordo interconfederale che è intervenuto fra CISL, UIL, UGL e Confindustria. È una delle ragioni per cui la CGL non ha sottoscritto l'accordo, però io voglio ricordare che il governo Prodi nel 1997 istituì una commissione incaricata di studiare la riforma del sistema della contrattazione, di cui facevano parte forse anche Chino, mi pare anche Chino, ma comunque i maggiori giuristi italiani. La Commissione Giugni, bravo, tra cui anche Massimo D'Antona e Marco Biagi, e arrivarono a questa identica conclusione, quello delle clausole di uscita che sono poi state applicate, come ricordavi Chino, in Germania, che sono applicate in Francia, che sono applicate in Spagna, perché insomma, il sommerso nel sud non è solo frutto della cattiva volontà degli uomini, è frutto di una realtà economica che non è in grado di stare a regole uniformi stabilite a livello nazionale. E tra l'altro è un sommerso che viene tollerato perché la realtà è più forte delle ideologie, è più forte delle norme. Entrambi gli interlocutori a questo primo giro mi hanno educatamente bypassato nel dire non rispondere alla questione se bisogna oggi incentivare fiscalmente molto di più il salario di produttività. Io ricordo che nel libro bianco consegnato all'inizio di maggio dal ministro Sacconi si ipotizza uno scenario in cui l'attuazione a regime della riforma del secondo modello contrattuale dal punto di vista del ministro, nel pieno rispetto però di ciò che ne faranno le parti sociali, quindi sposando la linea di Chino che non deve essere il legislatore a indicare la strada ma gli attori della contrattazione a costruirla pezzo a pezzo insieme, però in questo mondo ideale delineato da Sacconi si diceva la parte di salario del contratto nazionale diciamo un 60%, la parte del contrattata localmente il 40%, con la parte di salario nazionale quella con tassazione progressiva e la parte invece di contrattazione aggiuntiva di produttività aziendale territoriale a cedolare secca, in maniera tale da fare decollare molto la convenienza di questa seconda componente della retribuzione, perché diventa molto meno gravata da fisco e contributi e diventa più reddito dipendente nelle tasche dei lavoratori e più margine per le imprese. Era un po' questa l'idea secondo me su cui bisogna puntare sin dall'inizio, perché sennò io credo che appunto questo nuovo modello contrattuale noi lo applicheremo soprattutto per uscire dalla crisi, come diceva adesso Cazzola, con le clausole in deroga che vanno benissimo, ma saranno clausole in deroga più basse e non con più potere di acquisto. Alcuni ascoltatori, Michele da Milano, prego Michele. Buongiorno dottor Giannino. A lei. Allora, senta dottor Giannino, ho sentito con interesse, anche se intanto si interrompeva il vostro colloquio, parto dalla premessa che io sono un lavoratore, siamo da Milano, però sono del sud, vengo da Bari per la precisione, e quindi ho perfetta conoscenza di quelle che sono i meccanismi, le differenti costi. Parlo di Bari, non parlo di Canicattì, quindi parlo di comunque una grande città. mi rendo perfettamente conto che la forbice descritta dalla Banca d'Italia, il famoso 16%, in realtà secondo me è molto più alta. Io quando devo comprare una casa, andando da Bari a Milano con lo stesso budget, la casa che posso acquistare a Bari me la sogno, visto che me la voglio comprare a Milano, cioè, oppure quando vado a fare la spesa, quindi parliamo proprio del famoso conto della serva, che poi in realtà quello conta più di ogni altro secondo me, perché di parlare di farsi una settimana a New York da una parte o dall'altra è chiaro che costa lo stesso, quando vado a fare la spesa al supermercato di Bari o al supermercato di Milano le cose cambiano radicalmente, me ne accorgo quanto mi esce dal portafogli. Detto questo, sono assolutamente d'accordo sul differenziare maggiormente i salari tra nord e sud, tra le diverse realtà del nord e del sud, il problema è capire come. Lei ha fatto una proposta di legarlo alla produttività, ma a questo punto, cioè di indicizzare differentemente le aliquote di tassazione con, non so, un 60% sulla relativa su una base nazionale, secondo quella del 60-40%, con una tassazione secca rispetto a quello come si parlava per esempio della famosa detassazione degli straordinari introdotto con la prima finanziaria. Il problema è capire, però in questo modo io non la vado a differenziare in base al costo, chiamiamolo così, della vita regionale. Cioè, comunque legato a. Michele, il problema è che infatti se uno prende sul serio che una componente così elevata del salario diventa contrattata localmente e aziendalmente, deve immaginare invece che ci sia una classe di sindacalisti e di rappresentanti delle imprese che fanno i contratti localmente con gli indicatori di curva di costo alla mano, di cui gli indicatori del costo della vita sono una parte. E poi bisogna a quel punto munirsi. Quanto costa l'energia localmente? Qual è il gap infrastrutturale o di logistica o di gestione del magazzino e dei trasporti delle catene distributive alle imprese di questa filiera in questa parte d'Italia piuttosto che in un'altra? Bisogna immaginare un mondo in cui ci sono indicatori di questo tipo qua e i sindacati, i rappresentanti delle imprese ragionano indicatori di questo tipo alla mano. È un mondo molto diverso da quello attuale in cui per fare il contratto nazionale si guarda 3-4 cose e basta a livello nazionale, ma la realtà territoriale, quella che fa o non fa il conto delle imprese, per cui o c'è o non c'è l'occupazione, se non c'è il conto delle imprese dipende da questo. Abbiamo Ivana da Latina, Lucia da Brescia e poi riprendiamo col professor Ichino. Ivana da Latina, prego. Buongiorno, senta, io abito a Latina e lavoro in una struttura pubblica, lavoro al 118, le posso garantire che tutto lo stipendio che prendo me lo guadagno, nessuno me lo regala. Allora, volevo dire che è vero che c'è una differenza forse di spese per le famiglie per quanto riguarda il nord e il sud, nel senso che noi magari qui la frutta, la verdura la paghiamo un pochino di meno. Anche gli affitti, le case, insomma. Sì, beh, gli affitti, queste cose qui. Però è vero anche che al nord lavorano in 5 in una famiglia, al sud se lavora una persona, diciamo, di ruolo, perché poi sono tutti quanti precari, i giovani sono tutti precari, 3 mesi, 2 mesi, 1 mese. Io vorrei capire quest'Italia che cosa vuole dal sud. Cioè, allora a questo punto dividiamo l'Italia a metà, ognuno si fa il suo governo e poi si va avanti, perché non è possibile più, ci sentiamo sempre insultare, loro del sud, loro del sud. Noi del sud ci sudiamo anche al minimo di quello che lavoriamo, tutto, e quindi com'è possibile questa cosa che ce l'hanno sempre con quelli del sud? E a me questa cosa mi manda in bestia, anche perché quelli che stanno più al governo sono quasi tutti quelli del nord, che non fanno altro che macchine blu e aerei gratis, cioè loro hanno di tutto e di più. La gente al sud muore di fame, i giovani vanno all'estero, e se si sono fatte le case perché la gente è andata all'estero, non perché le hanno regalate. Grazie, arrivederci. Grazie Ivana, non mi pare che il tono della nostra trasmissione oggi sia una cosa in cui mettiamo nessuno nel mirino dicendo nord e sud. Stiamo ragionando di parametri rispetto a diversi costi della vita, e i costi della vita sono diversi e quindi bisogna adeguare le retribuzioni ai diversi costi. Abbiamo Lucia da Brescia, prego Lucia. Sì, buongiorno. Io sono, premetto, sono una pensionata e fortunatamente non ho un minimo di pensione, però voi parlate soltanto di gabbie salariali per industrie oppure attività produttive, eccetera. I pensionati? Punto di domanda, perché i pensionati che abitano al nord, non perché quelli del sud non abbiano problemi, però anche quelli del nord, con 10 anni fa, quando ho finito il mio lavoro, la mia pensione era più che sufficiente, ora assicuro che non lo è più. Abbiamo dei costi, io abito a Brescia e quindi Brescia è una delle città forse più care, sì. E quindi abbiamo dei grossi problemi. E quindi questo parlo per tutti i pensionati, penso che tutti siano della mia idea. Si parla di produttività, di industria, eccetera, ma noi che non lavoriamo più, che però io ho lavorato 36 anni, ho comunque contribuito, Più che legittima domanda che giriamo ai nostri ospiti. Adesso, prima di cominciare da Ichino, siccome ci ha raggiunto Giorgio Santini, che è segretario confederale della CISL, Santini, lei era in televisione, quindi non ha sentito tutta la nostra prima parte. Io ho tentato molto di spostare sulla contrattazione decentrata come strumento per risolvere anche questo aspetto, però insomma ci dica la posizione della sua organizzazione, che poi è abbastanza importante nel far decollare o meno questo secondo livello della contrattazione, che sperimentalmente adesso è partito, ma in alcune categorie vedo come i meccanici per il momento vede ancora i sindacati divisi. Lei che dice? Rispondiamo anche poi alla nostra amica da Brescia che dice per i pensionati. Sì, allora per quanto riguarda la contrattazione, noi abbiamo fatto proprio nei mesi scorsi finalmente un accordo importante, che come CISL abbiamo cercato da tempo per la verità, che sposta il baricentro, diciamo la centralità della contrattazione collettiva sul secondo livello, lasciando al contratto nazionale solo sostanzialmente la difesa di una retribuzione di base. E naturalmente c'è bisogno anche adesso di diffonderla, è incentivata fiscalmente questa contrattazione decentrata, quindi se ci sarà collaborazione da parte di tutti, del sindacato che lo vuole, e anche da parte delle imprese, delle associazioni datoriali, noi speriamo di riuscire nel settore privato e anche nel settore pubblico progressivamente nei prossimi anni a dare alla retribuzione una caratteristica più legata all'andamento effettivo della realtà nel luogo di lavoro, nel territorio in cui si effettua la prestazione. E questo, diciamo, è un impegno forte, un impegno, io penso, sul quale anche in questi giorni di dibattito un po' troppo improvvisato su questo tema delle gabbie salariali dovremo riflettere, perché può anche portare un altro tipo di implicazione, cioè che i salari si possono anche differenziare in funzione dello sviluppo. Questo vale molto per il Sud. Noi pensiamo che non in termini generali e rigidi, ma in termini flessibili, se ad esempio, come è avvenuto nel 94 per Melfi, in un'area del Sud è necessario e auspicabile un investimento produttivo che porti investimenti, lavoro, occupazione, si possono modulare, si possono anche per un certo periodo ridurre i salari, però finalizzati al successo di questo investimento che porta poi un bene duraturo come l'occupazione. Sul tema delle pensioni ha assolutamente ragione la nostra ascoltatrice di Brescia, perché qui è successo che dal 92 in poi, per effetto di una norma che è cambiata, le pensioni purtroppo hanno una minore rivalutazione, quindi sono destinate nel tempo a perdere progressivamente potere d'acquisto. Questo ovviamente si sente di più e incide di più laddove abbiamo una combinazione micidiale, pensioni magari in origine già basse che si svalutano e che purtroppo si combinano con costo della vita alto, come a Brescia, come nelle altre città del nord, come sappiamo. E questo chiaramente ci sta impegnando da tempo. Già nel 2007 un primo passo l'abbiamo fatto cercando di alzare un po' le pensioni proprio più basse, sotto i 650 euro. Adesso cerchiamo nei prossimi mesi, pur in questa crisi che non lascia purtroppo molto spazio, però di mettere a fuoco questo tema delle pensioni, soprattutto quelle più basse, per dare la possibilità di rispondere a questo tema che, ha ragione l'ascoltatrice, per i pensionati con 600-700-500 euro mensili è effettivamente insostenibile. Ichino, siccome lei ci segue fino alla fine, do la domanda a Cazzola, che poi invece ci saluta. Cazzola, c'è chi sostiene però che già oggi in realtà, se uno va a vedere sia il reddito pro capite medio tra nord e sud, e la differenza è molto elevata, ricordo che come reddito pro capite medio, quindi con tutte le approssimazioni di questo criterio statistico, però siamo tra i oltre 30.000 euro in Lombardia e poco più di 16.000 in regioni come la Campania e la Calabria. Sia invece, se ci concentriamo solo non sul reddito pro capite, che integra redditi da fonte diversa da quello da lavoro, ma se ci concentriamo su il reddito da lavoro dipendente in euro, anche qui la forbice resta elevata, perché in Lombardia siamo su valori medi intorno a 23.000 euro, 22.800 euro, mentre invece in una regione come la Campania siamo intorno a 17.000. Cioè c'è chi dice in realtà a costi diversi corrispondono anche redditi diversi. In qualche misura era la nostra ascoltatrice Ivana da Latina, sia pure un po' più arrabbiatella, che aveva un sottinteso di questo tipo. Lei che dice? Guardi, Però se noi mettiamo in relazione i consumi, i redditi con i consumi, ci rendiamo conto che al sud qualcosa non torna, perché il livello dei consumi del sud non sono tanto inferiori rispetto a quelli del nord. Cioè il problema del sud è l'economia sommersa. E tra l'altro quando si fanno anche questi paragoni, diciamo, si parla di una realtà diciamo regolare al sud, che è una situazione sostanzialmente minoritaria, ecco. Io poi vede, prima non ho risposto, io sono abbastanza d'accordo con lei che la vera riforma della contrattazione l'ha fatta il governo con la detassazione del salario di produttività, che è quello che dà forza all'accordo del 22 di gennaio, che vuole valorizzare il salario di produttività, perché in realtà c'è una forte incentivazione a mettere le risorse lì invece che da altre parti. Però forse rispetto alla prima fetta di incentivazione, che era solo per spingerli alla firma, adesso bisognerebbe convincere il Tremonti a metterne una più forte. Bisognerebbe alzare indubbiamente la forbice, indubbiamente più risorse si mettono lì, di tassazione si mettono lì, meglio è, questo non c'è dubbio. Però io credo che il passo importante sia già stato fatto, anche perché, questo me lo consentirà il mio amico Santini, non è che deve essere salario contrattato, è incentivato fiscalmente il salario comunque erogato a livello d'azienda. Quindi anche laddove non arriva il sindacato, questo può essere un bene o può essere un male, se viene erogato del salario a livello d'azienda, anche in quel caso c'è un beneficio fiscale. Certamente. Comunque sa, io credo che gli strumenti ci siano e ribadisco che se io fossi un sindacalista del Mezzogiorno chiederei una differenziazione retributiva, perché io sono convinto che l'economia meridionale non è in condizione di stare a regole uniformi. Ichino, per come lei conosce e segue e tenta anche di promuovere da anni con una certa energia, insomma, il cambiamento e l'approdo a una sponda più riformista del dibattito nel mondo sindacale italiano, nel mondo della sinistra, per come lei lo conosce, però l'approdo a il sindacato ideale che torna a guadagnare iscritti non solo più tra i pensionati, ma penso a tutte le piccole aziende in cui oggi quasi in Italia non c'è, con la capacità di sapere guardare criticamente appunto a quanto costano in maniera differenziata territorialmente le cose, per dire iscrivetevi al nostro sindacato, siamo più bravi a fare i contratti nelle aziende territorialmente, numeri alla mano, e le imprese, vedrete che noi con le imprese strapperemo più salario meno tassato per voi. Ma questo con la sinistra e il sindacato che lei conosce è un salto in avanti? Diciamo che si deve pensare, ormai è realistico, pensare a una competizione, un confronto e competizione tra modelli di sindacalismo diversi nel nostro paese. L'unità sindacale non esiste più, non è più nelle cose, è nelle aspirazioni, ma non è più nelle cose, e d'altra parte il pluralismo sindacale può anche avere un risvolto positivo nella possibilità appunto di confrontare modelli diversi e vedere pragmaticamente i risultati che questi portano. Ora, in questo confronto avremo un sindacato che diciamo difende il vecchio modo di essere della contrattazione collettiva, con il baricentro tutto spostato sul livello centrale, livello nazionale, e quindi un minor spazio obiettivamente alla contrattazione aziendale, minor spazio per negoziare nell'azienda l'innovazione, le novità nell'organizzazione del lavoro, negli orari e anche nella struttura della retribuzione, e dall'altra parte un sindacato invece diciamo un po' sulle linee di quello che diceva poco fa Giorgio Santini, è più propenso a spostare il baricentro della contrattazione a livello aziendale e che è più disposto a scommettere sull'innovazione, a scommettere sul nuovo piano industriale, diciamo con l'idea anche di essere capace di attirare nel nostro paese, soprattutto nelle zone più indietro, le zone meno sviluppate del paese, attirare il meglio dell'imprenditoria mondiale, attirare gli investimenti stranieri. Non dimentichiamo che l'Italia è il fanalino di coda in Europa per capacità di attirare gli investimenti, e questo è molto grave, perché gli investimenti stranieri pompano nella nostra economia energie fresche, innovazione, domanda di lavoro, quindi la capacità di attirare gli investimenti è molto importante, e questo implica capacità di negoziare il nuovo, anche talvolta in deroga rispetto al vecchio modello di organizzazione, vecchia struttura della retribuzione. Ecco, io vedo un po' il confronto fra questi due modelli di sindacalismo, che possono anche convivere. Avremo per esempio nel settore metalmeccanico la prevalenza del primo modello, in altri settori la prevalenza del secondo, e potremo confrontare i risultati. Stiamo parlando di come differenziare retribuzioni nel lavoro dipendente rispetto ai diversi costi della vita e a diverso rispetto a tutte le diverse curve di costo. Una raffica di vostri messaggi che ci richiamano a temi che non abbiamo ancora toccato. C'è chi dice: nel sud un conto è quello che dichiarano di pagarti, un conto è quello che ti danno davvero in busta, molto molto di meno, state attenti, e ti dicono o così o niente. C'è poi chi dice: il lavoro è uguale a Como come a Crotone, uguale deve essere la retribuzione. Se l'energia costa di più all'imprenditore a Crotone piuttosto che a Como, cavoli dell'imprenditore. Ci sono messaggi anche di questo tipo, io li leggo. Sì, a quel punto però poi non c'è più impresa, non c'è lavoro, non ci lamentiamo nel sud, dico io. Altri sostengono ancora che in realtà nel sud le imprese vanno avanti per il lavoro nero non dichiarato, e che questa componente poi sfugge in tutto ciò che abbiamo parlato fino a questo momento. Ancora due voci di ascoltatore e poi torniamo con i nostri ospiti Santini e Ichini. Iniziamo con Salvatore da Caltanissetta. Sì, buongiorno, sono in linea? Sì, dica. Buongiorno dottor Giannino, saluto i suoi interlocutori. Io, premesso che sono un uomo del Messina, nel senso che ho esercitato per circa 25 anni il ruolo di segretario provinciale di una categoria della UIL, avevo qualcosa da dire in base ai costi, perché io sto vivendo, a parte che vivo la realtà normale di Caltanissetta, c'è una città del sud, sto vivendo anche la realtà di una città del nord come Brescia, dove vengo spesso in quanto c'è un mio figlio che abita qui, e quindi vivo effettivamente la realtà dei costi, del costo della vita, vado a fare la spesa nei supermercati eccetera. Devo un po' contraddire, diciamo, chi dice che al nord la vita costa molto di più, in quanto ho potuto constatare di persona che facendo le dovute ricerche nei vari supermercati con le varie offerte, addirittura io riesco a risparmiare rispetto a quelli che sono i costi del sud, sulla frutta, sui vari generi alimentari. Ho potuto notare soltanto che c'è una lieve differenza in base agli affitti e qualche cosa di più sul pane, ma poi diciamo che complessivamente la vita, facendo appunto la spesa, diciamo, secondo la buona massaia, si può fare al nord come si può fare al sud. Di contro devo dire che i servizi al sud costano molto di più rispetto a qui. Faccio un esempio: per esempio la raccolta della immondizia, diciamo, dei rifiuti. A Caltanissetta la tariffa annuale è di 240 euro l'anno, l'acqua ora viene a costare molto di più di Brescia, nonché l'energia elettrica, la società che la fornisce a Brescia, la 2A, sì, la fa pagare molto meno dell'Enel. Questi sono dati che io ho potuto constatare in quanto sto vivendo, diciamo, a Brescia. Certo, l'argomento, diciamo, in base alla contrattazione ritiene molto di più, diciamo, di un semplice intervento, perché... No, chiarissimo, però intanto lei ci fa riflettere, su questo la ringrazio, sul fatto che al sud ci sono anche invece settori in cui magari può capitare di pagare di più rispetto che al nord. In questo però le devo far notare che usare Brescia come riferimento per il prezzo medio del trattamento di tutto il ciclo dell'acqua e riscaldamento è per fortuna per chi, per suo figlio che ci abita, è però un'eccezione in positivo rispetto anche al nord da quel modello, perché è un ciclo integrato che ha abbattuto molto i costi e le emissioni, che infatti viene studiato un po' in tutto il mondo, era la grande forza dell'ASM che poi è confluita in A2A. Approfitto di tutto questo per dire che noi dobbiamo anche un'integrazione di correttezza. Quando 4 giorni fa abbiamo parlato di Cassa al Mezzogiorno, un ascoltatore aveva citato dal sud, aveva citato il caso Brebemi dicendo si parla solo dei soldi del sud, però intanto qua si stanziano dal CIPE i fondi per la Brebemi. Io l'avevo interrotto dicendo guardate che la Brebemi è capitale privato, ma avevo detto 50-50, mi ero sbagliato anch'io, e la Brebemi ci invita a correggere, è tutto capitale privato, questo per dire, ecco, ho fatto anche questa correzione. Ancora Paolo da Roma, prego Paolo. Buongiorno, io volevo far notare una cosa, che cercare di fare una giustizia sociale differenziando i salari tra nord e sud è una semplificazione troppo grossolana. Faccio un esempio: all'interno di una stessa regione, e ce lo diceva anche in qualche modo l'ascoltatore precedente, ci sono località che hanno costi della vita completamente differenti. Io vivo a Roma e ho una casetta a circa 80 km da Roma, a Viterbo, nella zona di Viterbo, in un paese di Viterbo. Vi posso assicurare che c'è una differenza del costo della vita enorme tra quel paese, dal costo delle case. Non c'è dubbio. Perché a Roma io per spostarmi sto 1 ora e mezza al traffico e consumo più benzina, mentre per spostarmi quando sto fuori consumo pochissimo. Quindi che cosa facciamo? Differenziamo anche all'interno di una singola regione, tra località e località. Credo che questo sia un discorso un po' troppo complesso per ridurlo a nord e sud, perché anche al sud ci saranno città dove la vita costa di più e dove costa di meno. Quindi ecco, evidentemente bisognerebbe fare un discorso un po' più complesso, e quello che vorrei far notare è che molti ascoltatori mi danno l'impressione che ritengano che questo discorso significa dare più soldi a chi lavora al nord. No, io credo di aver capito che significa dare meno soldi a chi lavora al sud, per cui quegli ascoltatori che lavorano al nord e ritengono sì è giusto perché noi spendiamo di più, non è che loro avranno di più, è che daranno di meno a qualcuno che sta al sud. Io credo che già esista uno strumento, e poi chiudo, mi scusi, sì, che è la contrattazione aziendale, dove a fianco alla contrattazione nazionale ci sono le aziende più forti che possono erogare soldi a chi lavora nell'azienda attraverso questo strumento. Questo strumento è vero che è stato poco utilizzato, soprattutto a livello di patti territoriali per le piccole aziende, però questo può essere l'unico strumento laddove c'è un'economia forte per dare più soldi. Grazie, grazie Paolo. Santini, senta come poi gli interventi, sia pure senza nessuna pretesa di darne come campioni statistico, siano poi preoccupati quando si tratta di cittadini, prezzi eccetera, e la gente dice sì, ma qui in realtà con la contrattazione decentrata non ci daranno di più, ma vi daranno di meno, dicendo che voi in realtà costate di più rispetto ad altri. Come si fa a dare una risposta in questa fase di prima attuazione della contrattazione decentrata che tenga conto di tutte queste preoccupazioni, di tutti questi timori? Se prevalgono i timori non decolla questo nuovo modello. Lei che dice? Sì, veniva già detto, bisogna aiutarla la contrattazione decentrata. C'è adesso una incentivazione fiscale abbastanza importante, bisognerebbe rafforzarla, estenderla, affiancarla anche a un'incentivazione contributiva, perché anche il costo contributivo è molto alto, come sappiamo, e fare in modo cioè che effettivamente la contrattazione di secondo livello venga percepita come un'occasione, un'opportunità per crescere il reddito, ma anche per collegarsi meglio a quelli che sono gli obiettivi di produttività, di crescita, di qualità dell'azienda. E questo è un dibattito, una pratica, anche una cultura che va aiutata a diffondersi con l'azione, con le incentivazioni e anche evitando le semplificazioni che abbiamo sentito in questi giorni. Questo è uno strumento flessibile, uno strumento che deve inserirsi, non ha bisogno di norme rigide come gabbie o altre cose, è un'esperienza che va costruita, e come abbiamo visto anche la realtà è molto complessa, no? Noi, parlando di nord e sud, sappiamo che costi più alti al nord ma redditi più bassi al sud, quindi le cose in qualche modo in linea generale si compensano. Poi c'è però invece la realtà che è molto differenziata, e da questo punto di vista questo ci deve consigliare a evitare scorciatoie e approssimazioni, ma affidarci a strumenti solidi, a strumenti radicati e un sindacato, io spero che tutto il sindacato imbocchi questa strada, come CISL la vogliamo imboccare con molta forza, un sindacato che sappia stare vicino alle situazioni del lavoro e anche alle situazioni legate al costo poi della vita che è differenziato. Grazie, grazie Santini. Interrompo perché voglio fare un'ultima domanda a Ichino. Ichino, secondo lei è meglio affrontare la questione di un salario diverso, come si fa col nuovo modello, separato tenendo separata la questione rispetto da una riforma più o meno incisiva, più o meno estesa dell'intero regime, delle garanzie del mondo del lavoro dipendente? Serve di più andare per capitoli separati o forse servirebbe meglio per superare questi timori e queste obie invece avere una visione più organica e occuparsi anche della riforma e dell'estensione del regime delle garanzie? Dipende da chi è il leader, qual è la forza politica, qual è il sindacato che si fa carico di questo disegno. Se ci fosse appunto un grande sindacato, una grande forza politica che avesse questa visione generale del nuovo diritto del lavoro di cui abbiamo bisogno, probabilmente questo ridisegno del sistema al tempo stesso di relazioni industriali e di ordinamento del lavoro sarebbe molto utile al nostro paese. Se invece questo protagonista politico sindacale non c'è, bisogna intervenire sui singoli pezzi del sistema. Vorrei dire però che ha ragione fondamentalmente Santini, almeno come la penso io. Certo. L'unico modo per rafforzare le retribuzioni e l'occupazione al tempo stesso è di rafforzare l'impresa, la produttività del lavoro nell'impresa e favorendo l'innovazione. L'innovazione è il motore principale di crescita della retribuzione. E su questo la devo ovviamente interrompere perché il tempo è tiranno e devo dire che su questo siamo d'accordo tutti. Io per primo ringrazio anche Pietro Ichino, oltre a Girona Cazzola e a Giorgio Santini, ringrazio in regia Peter Bescapè e Alessandro Marco Tulli in redazione. L'appuntamento per noi è a domani, la linea al Giornale Radio. Radio 24, la passione si sente.